Che imbarazzo è mai questo? Un fuori anonimo, a cameriera in gabinetto chiuso, la padrona confusa, uno che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice sempre adesso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualche dei miei vassalli, assimilata come un elardir, ma la contessa, so che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se stessa e l'onor mio, l'onore. Dove diammi la posta, un manno errore? Saprò se Cherubino era giunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio. Cerebbi, a lui non devi nulla, invece tu voglio andarci io medesima. Avanti sera dovrebbe ritornare. Io non oso, penso che il tuo amore il mio riposo. E Susanna chissà se l'ha tradito al il segreto mio. Oh, se ha parlato di far sposare la vecchia. Signore! Cosa bramate? Mi pare che sia più folle. Volete qualche cosa? Signore, la vostra sposa è solitiva fuori. E vi chiede il fiaschetto degli odori. Prendete! Orvelrepo! E no, potete ritenerlo per voi. Questi non sono tali da donne miei pari. Un amante che perde il caro sposo sul punto d'otterlo. Promisi quando? L'idea d'avere lui sì, se voluto aveste intendermi voi stessa. E mio